Cioè, la domanda era: la presenza mentale significa attenzione a tutto ciò che c'è? Naturalmente non è possibile questo, quindi c'è un'attenzione selettiva. Poi te la riformulo ulteriormente questa domanda, ma tu mi stavi dicendo che, anzi, all'inizio si pratica proprio... Nella pratica della presenza mentale ci sono due stadi che vengono chiamati Shamatha e Vipassana. Shamatha viene tradotto come calma concentrata ed è la concentrazione su un solo oggetto di attenzione. Sì. Può essere il respiro in un punto preciso, possono essere le sensazioni del corpo e via dicendo. Sì. E questo significa che mentre tu fai questa pratica, tu ti alleni a lasciare andare la tendenza della mente a distrarsi e andare da altre parti. Sì. Come puoi, quando sei distratto, ti accorgi di dove sei e riporti gentilmente l'attenzione lì, sì, fino a quando la concentrazione si fa molto intensa, molto profonda. Sì. Sì. Questa è la prima fase, perché addestra a svuotare la mente dalle distrazioni e a praticare un'attenzione molto, molto focalizzata. Piano piano nella pratica, quando fai un ritiro, si tende ad allargare sempre più il campo dell'attenzione. Per esempio, dall'attenzione al respiro alle sensazioni del corpo, che anche l'attenzione alle sensazioni del corpo è un lavoro che adesso non ti sto a dire, sì, molto più vasto di quello che si può immaginare. Si può cominciare da alcune sensazioni precise e poi ci si estende a tutto il corpo, consapevolezza delle sensazioni piacevoli, spiacevoli, neutre e così via, no? Delle zone dove si sente, dove non si sente nulla e così via. Ma da questo si allarga il piano della attenzione, perché per esempio si comincia a includere i rumori. Se sei in una sala di meditazione, incominci a includere qualunque tipo di rumore. In genere, per esempio, a Pomai è molto bello i rumori degli uccelli. Ci stanno i piccioni, gli uccelli sugli alberi che cantano, eccetera. Quando l'attenzione passa dall'apertura ai suoni, ai rumori, all'attenzione al respiro, tu scopri che senti questi rumori come non li hai mai sentiti prima, perché c'hai una nitidezza di ascolto e di percezione molto particolare, no? Può essere addirittura un'esperienza estatica, il canto degli uccelli, eccetera, perché sei totalmente lì in questa cosa. No? Anche lì, qual è la tecnica? Come tu ti accorgi che la mente dai rumori poi tende a partire? Perché qual è il problema di quando allarghi il campo dell'attenzione? Che facilmente la mente comincia ad associare qualcosa, sì, pensa a un uccello, ci associa una cosa e incomincia a partire per quell'esperienza che ha fatto quella volta, sì, con quell'uccello, eccetera. E tu te ne accorgi 10 minuti dopo, dici, ah, stavo lì, stavo viaggiando con la fantasia. Come te ne accorgi, senza rammarico, con gratitudine per esserti risvegliato da quel momento di ipnosi in cui la mente era partita senza che tu te ne accorgessi, gratitudine, ti riporti e magari per un periodo pratichi l'attenzione concentrata su un solo oggetto, proprio per rifocalizzare l'attenzione. Poi la allarghi di nuovo. E quindi è tutto un... gestire in modo elastico questo, stringere l'attenzione, focalizzarla, come ti perdi, poi piano piano la apri, incominci a includere i suoni, incominci a includere altri tipi di percezione sul visivo, se vuoi, anche che è il più difficile, perché è molto facile distrarsi sul visivo. Tu apri gli occhi o visione? Anche con gli occhi aperti si può praticare, in genere si consiglia o chiusi o abbassati, concentrati in un punto. Però durante la meditazione camminata, per esempio, che tu fai un tratto di 10 metri praticamente e cammini molto piano, cammini così, no? Sei consapevole inizialmente, porti l'attenzione solo sui piedi, il piede che si solleva, si avanza e posa, e diventi consapevole del movimento del corpo, dell'ondeggiamento del corpo, dello spostamento, dell'equilibrio e del piede che tocca a terra. È bellissimo quando la fai a piedi nudi sull'erba, queste cose qui, tutte le sensazioni, morbidezza, durezza, leggerezza, quando sollevi, quando posi, l'attenzione si concentra lì. Una cosa semplicissima, però è molto difficile, perché siccome meditazione camminata fai con gli occhi aperti, la tendenza è cominciare a guardarsi intorno, il panorama, quello che ci sta, cioè ti distrai, non sei focalizzato. Inizialmente ti viene consigliato, cerca di essere più focalizzato possibile senza diventare mai rigido e mai forzare troppo. Man mano che l'attenzione si fa più focalizzata, perché quello che funziona in un ritiro è il continuum, tu pratichi 24 ore, non pratichi un quarto d'ora, perché ti siedi, ti alzi e continui a praticare, vai sul posto dove cammini, continui a praticare, fai 40 minuti di meditazione camminata, suona la campana, senti, ritorni lentamente, continui a praticare tutto il giorno, pratichi solo l'attenzione. Questo cambia completamente lo stato di coscienza. Il secondo giorno non è quello del primo, il terzo non è quello del secondo, ogni giorno è un cambio di stato che fai a livello di coscienza. Questa è un'esperienza molto interessante invece. E la puoi fare solo in quel contesto, non si fa fuori da un contesto del ritiro, perché nessuno 24 ore pratica l'attenzione, capisci? Allora, lì, piano piano, tu ti accorgi, sempre con molta gentilezza verso te stesso, verso la tua mente, la mente non va mai presa per le corna, ma sempre con molta empatia, con molta, che non deve essere indulgenza, che uno molli la presa, però non forzare troppo e non mollare mai, questo è il principio. Riportarsi dolcemente all'attenzione senza mollare, completamente sbragarsi, e non fare mai uno sforzo di denti stretti, questo è controproducente, mai, sempre molto gentile nella pratica, mai combattere con la mente. E piano piano tu ti accorgi che tu entri in uno stato di presenza che è più allargato, dove puoi includere tutto. Perché lo scopo è arrivare a uno stato di presenza, dove tu sei in quello stato di consapevolezza, nella quale sei consapevole dell'oggetto, sei consapevole della tua reazione all'oggetto, perché hai allenato l'attenzione alla reazione interna. Per cui, quando vedi una cosa, non sei più identificato con quella o ti perdi nella reazione a quella cosa senza esserne consapevole. Vedi l'oggetto e vedi la reazione, che è di tre tipi: piacevole, spiacevole o neutra. E tu sei consapevole se la tua reazione in quel momento è piacevole, di attrazione, è spiacevole, c'è rifiuto, neutra a volte si associa alla noia e alla sonnolenza, quindi facilmente si associa a quella di avversione, no? Perché le cose neutre non ci piacciono, noi vogliamo quelle che ci stimolano, no? Quindi c'hai queste tre possibilità e tu ti addestri a essere consapevole di questo movimento. Quindi l'attenzione non potrà mai essere totale, perché altrimenti saresti su un altro piano, voglio dire, no? Ma raggiunge una dimensione in cui può essere molto aperta, molto ampia, ma nello stesso tempo non sei perso nella mente. Molto significativo è quell'esempio che hanno fatto con l'elettroencefalogramma tra il maestro Zen e il maestro di yoga, no? E la persona ordinaria. E ogni tanto nella stanza dove stavano i tre mettevano un suono improvviso, tipo il suono di una campanella. La persona ordinaria, la prima volta che sente la campanella, oddio, no? Che cosa è questa cosa? Il telecefalogramma fa così, poi ripetuta questa cosa a distanza di tempo, ci si abitua, alla fine manco se ne accorge, non la sente più, è perso nel suo mondo interiore. La campanella non la sente neanche più. Lo yogi in samadhi ha tagliato ogni rapporto con la percezione, per cui lui sta in uno stato di comunione spirituale distaccato dal corpo, non la sente per niente, l'elettroencefalogramma piatto, lui sta in samadhi, non si vede. È la Pia. Pia, ciao! Sì, allora andiamo a trascorrere. Maestro Zen, ogni volta che suona la campanella l'elettroencefalogramma fa così, tic e ritorna piatto, tic e ritorna piatto. E mente come uno specchio, lui registra, ma non c'è coinvolgimento empatico, è fermo, la mente è ferma, l'emozione è ferma, per cui non c'è spavento, non c'è mente che incomincia a pensare ad altre cose appresso a quella cosa che si è distratta, la mente è attenta e ferma, per cui c'è questa registrazione di questa cosa e poi ritorna silenziosa. C'è un pensiero, tu lo vedi, è un pensiero che viene come una nuvoletta, attraversa la mente e se ne va. C'è una percezione, sei consapevole della percezione, la vedi, se ne va. Il punto fondamentale non è essere consapevole di tutto quello che ci sta intorno. Il punto fondamentale è che tu resti mentalmente nel silenzio. Non scatta il dialogo interno, il commentatore interiore, il giudice critico che dice, che commenta, che fa, che si aggancia, capisci? Tu sei addestrato ad avere una mente che resta silenziosa e che quindi sviluppa un'altra capacità di discernimento rispetto alle cose, perché il discernimento che si sviluppa sempre, perché non è che poi non sei più in grado di distinguere una cosa da un'altra, ma non è più di tipo analitico, è di tipo intuitivo. Il tipo di presenza che ti ha abituato, e tu la cosa sei abituato a vederla e a percepirla e a percepirne tutta una serie di contorni e di risvolti senza giudizio, ma in modo molto oggettivo, come senti che una cosa è calda e una cosa è fredda, capisci? Quindi sviluppi quella che viene chiamata appunto la vipassana, che letteralmente significa vedere dentro, una capacità di insight, di percezione, che ti dà una qualità di discernimento, di discriminazione, che è diversa da quello che prima di tipo analitico, che tu hai bisogno di fare tutti i confronti, le cose, è un discernimento, una percezione diretta. Tu certe cose le vedi in modo diretto, così come sono, senza reazione di attaccamento o avversione nei confronti di quella cosa. E questo è la mente pulita, no? L'effetto della presenza è questo, di pulire la mente. Quando la mente è pulita, quella che conta non è tanto la presenza in sé, ma tutto quello che è collegato alla presenza, a cominciare dall'empatia, perché la presenza è empatica, perché la presenza è in contatto, sente, percepisce, quindi sì, la qualità di rispetto, comunione, gentilezza, benevolenza, mancanza di reattività egoica di fronte alle cose, eccetera. La presenza è nello stesso tempo è una qualità dell'essere per eccellenza, ma è una chiave di accesso alle qualità dell'essere. E quella che anche quando tu sei in uno stato negativo, ti consente comunque di riportare dove sei, di collegarti immediatamente alle qualità dell'essere, perché nel momento in cui sei attento a quello e accogli quello che c'è così com'è, tu immetti una qualità dell'essere potentissima, che ha una capacità di trasformare il negativo in positivo, capisci? Di trasformare l'energia della negatività, viene disinnescata dall'oggetto con cui tu ti sei emotivamente agganciato e viene innescata nella consapevolezza, diventa un nutrimento della consapevolezza. La rabbia che tu c'hai, noi siamo abituati a dire, beh, il bambino quando si arrabbia tu non lo puoi reprimere, no? Deve imparare che può esprimere la sua rabbia, deve avere il permesso di arrabbiarsi. E se sente che c'ha il permesso di arrabbiarsi, piano piano incomincia a riconoscere, a contattare la sua rabbia, a capirla. Però poi, man mano che cresce, l'educazione è a riconoscere la sua rabbia, accettarla, non giudicarsi per questo, non rifiutarla, ma nello stesso tempo non agirla. È lì che si innesca una qualità di adulto, perché il bambino la deve agire, o la reprime o la agisce, non c'è alternative. Mentre nel momento in cui tu sviluppi la presenza, hai quella capacità di sentire la rabbia totalmente, di accoglierla senza giudizio, ma nello stesso tempo non hai più il bisogno di buttarla addosso all'altro, perché puoi fermarti un attimo, stare con questa cosa, ci lavori con la consapevolezza, diventa nutrimento, la rabbia ti nutre, nutre te, trasforma la tua qualità, quando sei tornato nella presenza allora parli con l'altro, e lo confronti, anche gli dici tutto quello che gli devi dire, se gli devi dire qualche cosa, ma con un'altra energia, non con l'energia della rabbia. Quindi, da adulto, con una qualità in cui tu aiuti lui a riconoscere delle cose senza calpestarlo con la tua reattività a quella cosa. E questo è il potere della consapevolezza, capisci? Di trasformare gli inquinanti. Benissimo. Bene.